I misteri di San Giovanni, il divino. Quando il Salvatore è risorto dalla morte, è venuto al Monte degli Ulivi per sedersi lì. Ha fatto una nuvola coprendo tutti i paesi in cui gli apostoli stavano soggiornando e portandoli alla sua presenza sul Monte degli Ulivi. E Giovanni gli disse: «Mio Signore, mi hai detto, tu sei il mio amato e hai trovato il favore con me? Poi, portami in cielo e mostrami tutto così che io possa sapere». E il Salvatore gli disse: «Chiedimi ogni cosa, e io non ti nasconderò nulla. Alziamoci e preghiamo il Padre, benedetto sia Lui, ed Egli ci ascolterà». Si alzarono e pregarono, e quando fu pronunciato «Amen», i cieli andarono da una parte all'altra e si aprirono uno dopo l'altro fino al settimo cielo. E un grande cherubino apparve nel cielo in una nube luminosa, e il suo corpo fu riempito di occhi e lampi balenarono fuori da lui. E gli apostoli caddero a terra terrorizzati e diventarono come morti. Ma il Salvatore li sollevò e dissipò le loro paure confortandoli. E John gli disse: «Dimmi qual è stato d'essere è questo cherubino?» E il Salvatore dice: «Ti mostrerò tutto. In questo cherubino, le parole del Padre sono nascoste, dal loro inizio al loro completamento. Gli farò spiegare tutto a te». E rivolgendosi al cherubino, disse: «Ti comando di portare il mio amato Giovanni in cielo e di spiegargli tutto ciò che ti chiede». E prontamente, il cherubino sollevò Giovanni sulla sua ala di luce e lo portò in cielo. E il guardiano della porta del primo cielo ci ha aperto con timore e riverenza. E io, Giovanni, ho visto i grandi segreti del primo cielo. Qui, 12 uomini seduti su 12 troni alla porta, in grande gloria e maestà. E io dico al cherubino: «Maestro, chi sono?» E dice: «Questi sono i 12 sovrani dei mondi di luce, e ognuno governa per un anno». Micaele dirige le loro opere in modo che la terra generi i suoi frutti. E io dico: «Mio Signore, in alcuni anni l'acqua è insufficiente, eppure ce ne sono molti. E altri anni, quando l'acqua è abbondante, non ce n'è abbastanza». «Com'è?» Il cherubino mi disse: «Vedi quest'acqua sotto i piedi del Padre? Quando alza i piedi, le acque si alzano, ma se, quando solleva l'acqua, un uomo pecca, rende meno il frutto della terra. Se dall'altra parte, gli uomini si prendono cura e non peccano. Egli benedice la terra, e alla supplica che fa Micaele, è l'abbondanza del suo frutto. Se solo gli uomini ricordano che Micaele chiede l'acqua per venire sulla terra, si prenderanno cura di non commettere peccato. Micaele porterà con sé 12 miriadi angeli e loro vanno al Padre e si inchinano a Lui e non si muovono finché Dio non manda giù le acque al mondo. Poi ho detto al cherubino: «Ho sentito dire che Dio ha creato i cieli e la terra, e Dio ha anche creato le acque sin dal principio». E il cherubino mi disse: «Anche prima che Dio creasse i cieli e la terra, c'era acqua, ma nessuno sa nulla della creazione di acqua se non Dio stesso. Questo è il motivo per cui l'uomo che fa un falso giuramento in nome dell'acqua non sarà mai perdonato». E questo è vero anche per quanto riguarda la pianta di grano. Chi giura falsamente da lui non sarà mai perdonato. E io dico al cherubino, mi spieghi il business della pianta di grano e dimmi dove fu trovato nei primi tempi, prima che l'agricoltura iniziasse e dove si nutrissero gli uomini? E il cherubino mi disse, quando Dio creò Adamo, lo pose in paradiso e gli disse che poteva mangiare da ogni albero eccetto l'albero della scienza di ciò che è buono e cattivo, e che il giorno in cui avrebbe mangiato da questo albero sarebbe sicuramente morto. Tuttavia, il diavolo era geloso di Adamo perché il sole e la luna erano soliti inchinarsi ad Adamo prima di salire sulla terra. E il diavolo seduce Adamo e sua moglie a mangiare il frutto dell'albero proibito, e vengono espulsi dal paradiso e andarono a vivere nella terra di Avila. E guidarono vite di angoscia e di fame, e Adamo gridò a Dio aiuto. Allora nostro Signore, che aveva patrocinato Adamo, ebbe pietà di lui e parlò al padre e gli disse che l'uomo che lui aveva creato a sua immagine e somiglianza stava morendo di fame e stava per morire. Allora il padre disse a suo figlio, poiché sei mosso a pietà per l'umano che abbiamo creato ma che ha gettato le nostre istruzioni dietro di lui, va e dagli a te la tua stessa carne e mangiala. Per te ho deciso di agire come suo avvocato. E il figlio della divinità disse, farò ciò che hai detto. Quindi lasciò la presenza del suo buon padre e prese dalla sua parte destra un pezzetto della sua carne. Divino che egli rotolò in piccoli pezzi e lo portò a suo padre che disse, che cos'è? E lui dice, questa è la mia carne. E il padre dice, sì, davvero, figlio mio. Aspetta e ti darò la mia stessa carne oltre a ciò che è invisibile. E il padre prese una porzione del suo stesso corpo che mise in un chicco di grano e sigillò il grano del sigillo di luce con il quale aveva sigillato i mondi di luce. Così lo diede a suo figlio e gli disse di darlo a Michael per dare ad Adamo e dire a lui e ai suoi figli di nutrirsi con esso. E Michaele ha dovuto insegnargli come seminare e raccogliere. E nostro Signore ha dato il grano a Michaele che è andato da Adam e l'ha trovato nel Giordano, quando era rimasto senza cibo per 8 giorni. E quando Adamo uscì dal Giordano, Michaele gli diede il grano e gli insegnò come seminare e raccogliere. Così l'acqua e la pianta di grano e il trono del Padre occupano la nostra gerarchia e sono uguali al Figlio di Dio. Poi il cherubino mi ha portato al 7° cielo su un vento di luce, dove vivono tutte le file di angeli. Prima vengono i serafini. Sono vestiti con la pianta del grano e hanno in mano incensieri dorati. Quelli in seconda fila tengono nelle loro mani bottiglie d'oro piene di rugiada che riversano sui campi, e ognuno lavora sotto la direzione di Michaele. E il nome di Michele è sulle loro vesti e ogni angelo pronuncia il suo nome, perché a nessun angelo è permesso scendere sulla terra senza il nome di Michaele inscritto sulla sua veste per proteggerlo dal diavolo. E vidi una fontana versare dell'acqua bianca come il latte e un angelo le stava accanto, con le ali intinte nell'acqua. E la fontana è circondata da alberi carichi di frutta. E il cherubino mi disse: questa è la fonte che versa rugiada sulla terra. Al suono di una tromba, questo angelo si alza e scuote le ali e colpisce il cielo in modo che i cieli si aprano, uno sotto l'altro, in modo che la rugiada venga distillata dalle sue ali fino a quando il terra. E io dico al cherubino: come si aprono questi cieli l'uno sotto l'altro, affinché la luce del giorno possa attraversarli e raggiungere la terra? E disse: sette trombe controllano la rugiada e i loro suoni suonano prima che la rugiada raggiunga la terra. E la rugiada segue il suono delle trombe da un cielo all'altro. Micaele soffia la settima tromba e la rugiada cade e aumenta i frutti della terra. E mentre guardavo, vidi un uomo pieno di rabbia in piedi vicino alla fontana di rugiada e stava piangendo sangue e le gocce cadevano nella fontana. Mentre stavo lì, la sua rabbia per l'umanità ha scosso l'intero posto. E i cieli furono aperti, e l'angelo Michele, con una cintura d'oro, venne con una spugna in mano, e asciugò via le lacrime di sangue dell'angelo dell'ira, e lo tolse dalla fontana, perché lui voleva creare una carestia sulla terra. E io dico al cherubino: spiegami la faccenda dell'angelo dell'ira. E lui mi disse: egli è l'angelo della carestia, e se Michea non pulisse il sangue, l'acqua della fontana diminuirebbe e la rugiada sarebbe giunta al termine e le ferite si sarebbero sparse sulla terra. Sono 400.000 angeli che cantano inni sopra la rugiada, così che cade in uno stato di purezza sulla terra. Poi il cherubino mi mise sulla sua ala di luce e mi portò al luogo dell'alba e della fontana da cui sgorga l'acqua che riempie i fiumi Fison, Tigri, Gione e Eufrate. E vivo là in paradiso? Era pieno di alberi. E io dico al cherubino: mio signore, mi mostreresti l'albero di cui Adamo ha mangiato il frutto? E lui mi ha detto: fai una domanda su un grande mistero. Tuttavia, alzati e mettiti dietro di me, e ti mostrerò l'albero e non ti nasconderò nulla. L'ho seguito mentre camminava attraverso il paradiso e ho guardato e visto questo albero. Non aveva frutti su di lui e i rovi crescevano tutti intorno a lui e il suo ramo affondò profondamente nel terreno. E io gli dico: spiegami questo albero sul quale non c'è frutto e che è coperto di rovi. E lui mi disse: questo è l'albero di cui Adamo mangiò il frutto e divenne nudo. E io dico: ma non c'è frutto su di esso. Dove ha trovato Adamo il frutto? E lui disse: frutto cresceva su di lui, e aveva frutto che Adamo mangiava. E io dico: che tipo di frutto? E il cherubino mi disse: era una specie di melò. E mentre mi meravigliavo di queste cose, vidi da lontano, mentre Adamo si avvicinava, sembrava stesse piangendo. Si avvicinò all'albero e raccolse le foglie dal basso e le seppellì nel terreno. E il cherubino mi dice che dal momento in cui il diavolo è entrato in paradiso, l'albero aveva perso il suo dolce profumo e le foglie erano cadute, e che Adamo stava usando le foglie dell'albero per vestirsi. Allora dico al cherubino: come potrebbe il diavolo entrare in paradiso e sedurre Adamo ed Eva? Non sarebbe potuto accadere senza che Dio lo permettesse? E lui mi ha detto, 80 angeli sono nominati per proteggere il cielo ogni giorno, e 12 salgono per adorare Dio. È successo che quando il diavolo è entrato in paradiso e ha ingannato Adamo, non c'era nessun angelo che lo fermasse, perché tutti gli angeli avevano accettato di rimanere fuori finché Adamo non aveva mangiato frutta dell'albero. Allora dico al cherubino, se hanno fatto questo accordo, Dio dà il permesso, il peccato non cade su Adamo. E il cherubino rispose, in nessun caso. Se Adam avesse avuto solo un po' di pazienza, Dio gli avrebbe detto molto presto, puoi mangiare dall'albero. Nondimeno Dio rimosse l'innocenza di Adamo e lo scacciò dal paradiso in modo che ciò che aveva decretato si sarebbe adempiuto quando avrebbe mandato suo figlio nel mondo. E dissi al cherubino, quale disposizione della giustizia Adamo era vestita? E disse, quando Dio creò Adamo, aveva 12 cubetti in altezza e 6 in larghezza, e il suo collo era lungo 3 cubi, ed era senza macchie come un pezzo di alabastro. Ma quando ha mangiato l'albero, la sua statura è diminuita e lui è diventato piccolo, e la sua innocenza è svanita, lasciandolo nudo alla punta delle dita. Non aveva freddo in inverno, né caldo in estate, e quando il ghiaccio e la neve cadevano a terra, la prima cosa che divenne fredda sul corpo di Adam era la punta delle dita, e poi pianse. E gridò, guai a me, o mio Signore! Piangeva piangendo come Ezechiele quando era malato ed era solito girarsi verso il muro per piangere. E dissi al cherubino, perché Ezechiele piangeva e gridava, si rivolge a un uomo piuttosto che a un muro? Ed egli rispose, Salomone costrinse tutti i demoni a descrivergli le diverse malattie che causavano, i rimedi necessari per curarli e le diverse erbe da usare per liberarsi dal dolore. Poi Salomone scrive tutte queste cose sul muro della casa di Dio. E quando un uomo era malato, andò al tempio e guardò il muro per trovare la cura per la sua malattia, e dopo averlo applicato fu guarito e glorificato Dio. Dopo la morte di Salomone, Ezechia coprì il muro di calce e le prescrizioni non potevano più essere viste e lette. Quando Ezechia si ammalò, non riuscì a trovare la prescrizione per il suo male. Così andò al tempio e si sdraiò lì e, vedendo il muro, pianse e si pentì di ciò che aveva fatto. E io dico al cherubino, mio Signore, qual è il fardello del paradiso? E tienilo così? E mi ha detto, egli è sospeso dalla fede e dal decreto di Dio. E io gli dissi, qual è la terra? E lui rispose, è supportato da 4 pilastri che sono sigillati con 7 sigilli. E io gli dissi, non essere arrabbiato con me, dimmi su cosa poggiano questi pilastri? E il cherubino rispose, colui che li ha creati sa cosa li preoccupa. Poi ho chiesto della creazione delle ore della notte e del giorno. E lui ha risposto, Dio ha nominato 12 cherubini per stare dietro il velo e tutti cantano un inno al giorno. Quando il primo ha cantato il suo inno, la prima ora è passata, e quando il secondo ha cantato il suo inno, la seconda ora è passata, e così via fino alle 12 in punto. Come alle 12 della notte. Gli uccelli, Le bestie e i rettili pregano, e quando si sono fermati, è passata la prima ora. Sono gli animali di Dio che fissano i limiti delle ore della notte. Quando il dodicesimo inno della giornata è finito, Micaele ordina agli angeli del sole di dirigere la sua corsa fino alla fine. E io dico al cherubino, mio signore, Dio ha posto la via della vita di un uomo dal ventre di sua madre? E lui mi ha detto, un uomo produce opere inutili per tutta la sua vita, e un altro uomo agisce con gentilezza, ma Dio mette un segno sull'uomo giusto prima di plasmarlo, perché senza Dio nulla può accadere. Il peccato è estraneo a Dio perché il creatore dell'umano è senza peccato. L'uomo peccò del proprio desiderio e del desiderio del diavolo. E io dico al cherubino, quando Dio sta per creare un uomo, lo chiama santo o peccatore? E lui mi ha detto, quando Dio creerà un uomo, prima di metterlo nel ventre di sua madre, egli chiama tutti gli angeli a venire e stare intorno a lui. Possa il padre dire, questa anima mi darà riposo, o, quest'anima commetterà iniquità? Gli angeli rispondono, Amen. Ciò che viene dalla bocca del padre è stabilito. E io dico al cherubino, la sostanza dell'uomo è superiore agli animali? E lui dice, sì. Quando un uomo muore, viene trasportato in un luogo per il quale è d'accordo, ma il posto per le bestie, viventi o morte, è la terra. E ho chiesto al cherubino, le bestie hanno un'anima? Ed egli rispose, ogni creatura ha un'anima e l'anima di ogni creatura è nel sangue. E io gli dico, le bestie sono punite o sono perdonate? E mi ha detto, lascia che sia il perdono per loro e non lasciarli soffrire. Ma l'uomo è un essere che può soffrire il dolore e godere anche del riposo. E io dico al cherubino, non essere arrabbiato con me, ti prego di parlarmi delle stelle nei cieli, perché non le vediamo dopo il sorgere del sole, dove vanno fino al loro tempo per eseguire nuovamente il loro servizio. E lui mi ha detto, le stelle sono di diversa natura. Alcuni rimangono nel cielo fino a mezzogiorno ma sono invisibili a causa della luce del sole. Ci sono sette stelle nei cieli che sono chiamati, gli dèi e che sono autorizzati a distanziare le loro stazioni solo quando la morte avviene sulla terra. E io dico al cherubino, in che modo una stella è diversa dall'altra? E perché una stella si sposta da un posto all'altro? E lui mi disse, ci sono molti tipi di stelle che si muovono dalle loro posizioni originali, ma il decreto governativo di Dio per loro rimane fisso per sempre. E ora ti ho detto tutte le cose. Scendi nel mondo e di loro tutto quello che hai visto. Poi il cherubino mi portò direttamente al Monte degli Ulivi dove trovai gli apostoli riuniti. E io dico loro quello che ho visto, e quando ci siamo baciati, tutti sono tornati nella sua area a glorificare Dio.